Felice è quell'uomo che crede che la sua città natia sia il mondo intero, di quello che aspira a divenire più grande di quanto la sua natura gli consenta. Mary Shelley, 1818, l'uscita del suo lavoro. Lei soli 22 anni, qui stiamo parlando di un vero genio, oltre che letterario, di sensibilità veramente immensa. Mary Shelley con questo lavoro darà il via a un filone ben preciso per quanto riguarda la letteratura, che chiaramente ha dato, come tutti i miti, la sensazione del tutti i tempi. Arriva Curatela di Ert, Teatro Arena del Sole, venerdì 13 e sabato 14 ottobre, Frankenstein, A Love Story. Del resto è anche una grandissima storia d'amore, ne parlavo ieri. Non c'è narrazione, non vi è film, non vi è romanzo che possa scatenare, o anche scrittura musicale che possa avere così un'incisività nel mio interesse, se non vi è la storia d'amore. E chiaramente in Frankenstein c'è, nonostante quello che noi nello stereotipo abbiamo. Sarà anche per una somiglianza di fisicità, non so per quanto riguarda il mio caso, però è uno dei primi libri che lessi e tuttora me lo sono portato in redazione per prendere alcuni spunti anche nella presentazione di questo lavoro portato da Motus con Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, cioè Motus per una prima assoluta. È un progetto mostruoso, diranno i registi. È composto dalla cucitura, del resto ricorda, no? Da una cucitura di diversi episodi, dai desideri di ridare vita all'inanimato, galvanizzandolo, scomponendolo, ricomponendo tutto ciò con l'arte, con il teatro, con la letteratura e con un messaggio che rimane quanto mai attuale. Dopo giorni e notti di lavoro e di una fatica incredibile, riuscì a scoprire la causa della generazione della vita. Anzi, di più ancora, divenni lo stesso capace di dare animazione alla materia morta. Arte Emilia Romagna Teatri si comincia quindi con uno spettacolo che ha dei dualismi, è il caso di dirlo, molto importanti. Intanto ci presentiamo, siamo con Daniela Nicolò, fondatrice e co-regista di Motus. E iniziamo con te appunto questa conversazione. È una storia d'amore, di che si tratta? Diciamo che abbiamo noi scelto questo sottotitolo, in realtà c'è anche tanto odio e violenza purtroppo, però abbiamo deciso in questo primo movimento, così l'abbiamo chiamato, dedicarci alla grande amore, passione che questa creatura creata, costruita, assemblata, quindi artificiale, e già qui c'è un tema molto forte che tocchiamo nel romanzo, nell'opera, nello spettacolo, quello della generazione mostruosa, di un essere ibrido che non è né umano né animale, che però viene al mondo immediatamente abbandonato, disconosciuto dal suo creatore, e inizialmente prova una fascinazione straordinaria per la natura, scopre il mondo, scopre la realtà e anche gli umani, dei quali cerca affetto, dei quali cerca ascolto, dei quali cerca amore, ma viene continuamente e irrimediabilmente sempre rifiutato, in modo anche violento, per la sua non conformità fisica, per la sua mostruosità. E questo è un tema che ci tocca molto, ha toccato tutto il nostro percorso di lavoro, ma è ancora tanto attuale purtroppo. E da qui comincia tutta la sua ricerca di dialogo con il creatore. Il romanzo è una struttura veramente a scatole cinesi ed è stato scritto da questa straordinaria Mary Shelley a soli 19 anni, anche questo è stupefacente. Ed è un romanzo che apre la fantascienza, inaugura la fantascienza contemporanea, quindi visioni altre del futuro. un'altra narrazione musicale, ma il titolo mi ha portato a inserirlo all'interno di questo lavoro, You Only Live Twice. Inizia a scriverlo a 19 anni, mi pare che venga pubblicato nel 1818, quindi all'età di 22 anni, per quanto riguarda Mary Shelley, questa sensibile, immensa scrittrice per un protagonista che è stato poi così impersonificato in ruoli nel mito e in tanti aspetti, in tantissimi aspetti, perché come ben sapete il mito è sempre e comunque. Abbiamo il nuovo Prometeo, abbiamo la creatura che sfida l'impossibile, abbiamo lo studioso che vuole andare oltre, insomma di concetti ve ne sono un'immensità. Abbiamo il respingimento per tutto ciò che è diverso, abbiamo l'abbandono e la solitudine, la conoscenza del sentimento, sì, vi è veramente un'immensità di sensazioni all'interno di questa scrittura. E per quanto riguarda il teatro Arena del Sole, Motus, la compagnia, il duo che porterà sul palcoscenico Frankenstein, A Love Story. Quindi la nostra conversazione procede anche con Enrico Casagrande, che appunto, beh, direi che ne ha una parte quanto mai importante. Sono pienamente d'accordo, in quanto per me resta anche una storia d'amore nella sua struttura originale. Sarà per una morfologia che mi porta molto vicino a questa creatura, però insomma adesso... ci si può impersonificare in Frankenstein. Siamo con Enrico Casagrande, co-direttore, co-regista insieme a Daniela di Modus. Ma in un certo senso sì, io lo faccio insomma in è stata anche questa una scelta difficile, quella di ritornare in scena dopo 20 anni, però ci è sembrato necessario che fossi io poi a prendere la parola di questa creatura, quanto appunto anche per un senso proprio politico di responsabilità. Ovviamente non attraverseremo tutte le vicende perché sarà difficile, però appunto questo che diceva anche Daniela, questa parte più di amore verso il linguaggio, verso l'umano, volontà di entrare in una società che tiene le porte chiuse, e sarà la parte principale che andremo a toccare. E io cercherò di essere quella figura là con il mio corpo, insomma, che ovviamente non è conforme a tutto a posto, però comunque siamo tutti dei mostri in un certo senso. Siamo tutti dei mostri in un certo senso. Thank you. Dope Record, abbiamo già conosciuta ieri con The Detroit Experiment, la produzione del padre della techno di Detroit, Carl Craig, che si mette a disposizione per brani jazz and soul. In questo caso le modalità si spostano, siamo in Pennsylvania e The Philadelphia Experiment è protagonista. Appunto sono brani, guarda caso li ho voluti mettere assieme al commento in musica per questo lavoro, dove veramente un demiurgo come Hurricane per Zadig Record, Knitting Factory, l'abbiamo ascoltato anche nelle rassegne presentate in Jet Live insieme al contrabbassista Christian McBride, il chitarrista qui con grande prova soul Pat Martino, riportano le sonorità così in modern jazz dedicata a The City of Brotherly Love, Philadelphia. Ed è un lavoro, come ho detto, di questa label americana molto interessante. Vi ho parlato in precedenza di un'altra narrazione musicale, sì, il lavoro dei Sex Mob, già dal titolo Das Bond, cioè rifanno colonne sonore per James Bond, però il titolo di questo brano mi ha dato adito di riportare anche in musica la presentazione per In Scena nella puntata di oggi, venerdì 13 ottobre, essendo Frankenstein, e appunto ho messo You Only Live Twice. Teatro Arena del Sole, date questa sera, domani sera 13 e 14 ottobre, grazie a Enrico Casagrande e Daniela Niccolò Motus per questa breve ma molto importante conversazione nell'anticipazione e presentazione del lavoro che troveremo, la curatela di Earth ovviamente, e infine abbiamo appunto unito le voci per concludere questa linea di dialogo con i protagonisti e concludere la presentazione dedicata a Frankenstein, a Love Story. Sì, infatti è quello che si è dentro poi alla fine, perché siamo tutti sia Frankenstein sia la realtà giudicante di Frankenstein, e questo probabilmente è nel dualismo che viene evidenziato insieme a tante altre cose tramite questo capolavoro. Come è stato strutturato lo spettacolo, senza svelare ovviamente, ma particolarità da palcoscenico. Dunque, noi ho preciso che abbiamo lavorato sulla drammaturgia con Ilenia Caleo, e una delle decisioni che abbiamo preso insieme dall'inizio è stata di lavorare su tre figure, tre temperature, che sono tre mostruosità: la creatrice Mary Shelley, che è in scena, il dottor Frankenstein, il creatore e la creatura. Quindi c'è questa triangolazione, questo passaggio di solitudini, perché fondamentalmente è una sequenza di momenti individuali che attraversano sia molte parti del romanzo, ma anche sono innestate con altre fonti letterarie e filosofiche, soprattutto un'area di letteratura transfemminista postumana, quindi da Donna Haraway, Aline Margulis, a Ursula Le Guin, un'altra scrittrice di fantascienza contemporanea. Quindi ci sono questi innesti, e la scena, abbiamo davvero deciso di tornare alla vecchia macchineria teatrale. Sì. C'è anche una sfida nostra, che abbiamo sempre lavorato con ambienti ipertecnologici, questa volta c'è proprio un lavoro di macchineria che rimanda un po' forse anche alle vele, alle navi di quel vascello su cui Frankenstein è stato salvato come nao Fragò quando nei ghiacci del Polo Nord durante questa spedizione coloniale dei tempi. E quindi c'è questo movimento continuo dello spazio scenico, fatto però dagli attori stessi, c'è una grossa artigianalità. Sì. Anche, e questo susseguirsi di scene numerate con dei titoli, 22 momenti, pezzi, ecco, abbiamo detto, lo spettacolo è fatto di pezzi. Sì. Così come è la creatura, infatti. abbiamo parlato del palcoscenico, abbiamo parlato di come viverla, della struttura. A questo punto strapperei qualche emozione da Enrico. Emozione ovviamente per una prima, per un'uscita, cioè ce ne sono tantissime, insomma, anche per un'attesa che c'è. Noi ci piace molto condividere il nostro lavoro con il pubblico, ecco, non lavoriamo solo con noi stessi, il teatro ci piace farlo per questo, e quindi l'emozione più grande sarà appunto aprire quelle sale e dire e fare quello che stiamo facendo adesso a scatola chiusa, insomma, dentro questo black box, da soli, con un pubblico che guarda e che spero che trovi appunto nelle nostre domande delle domande anche lui da porsi, ecco, più che delle risposte. Certo. Grazie della vostra disponibilità, tenetemi presente se serve una fisicità. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. Hi, yeah, it's me. Yeah, look, I'm gonna be home again late, okay? All right. Label è sempre quella, interrompo per una importantissima comunicazione di servizio. Allora, Marco, Neven, Riccardo, han perso il pullman della scuola. Alzatevi, cioè è ora, direi, sono già le più che le 8:21, cioè mattina da un pezzo, capito? Arriva Frankenstein, occhio. Or is this compulsory? Yeah. I know love too well. I know love. My mind drifts alone. And when I go away, you never come with me. You're not there. This ain't my idea of fun. No, no. This isn't my idea of fun. This must be, yeah, but funny, kinda happy. Cause lately I find me lacking in stories and yearnings of wanting to be home and in your presence again. I found myself staying or just out delaying. I'm tired of this lying, all this false smiling. We're just prolonging and fate avoiding. And I'm not the one, yo. This ain't fun, love. This isn't my idea of fun. For interest, yeah, for attention. Yeah. In fact, paranoia became an addiction. I tried to show affection in so many ways. So many gazing into eyes and with overnight stays. Overnight I'm cooking nice meals, phone calls in the day. Yo, this ain't my way. This ain't me. This ain't fun, love. It's not fun. This isn't my idea of fun. Where's the fun gone? Non fa paura a nessuno questa mia minaccia, capisco, però insomma dai, capisco anche che è venerdì, ma appunto perché è venerdì, piccolo sforzo, su dai ragazzi. Ben lieto di essere in questo caso un Frankenstein radiofonico che non dico deve intimorire, ma intimare amichevolmente, fraternamente, di alzarsi a questi ragazzi. Una decisione che riflette il dualismo stesso tra creatore e creatura e la mostruosità del libro stesso, che ha una struttura in cui la somma delle parti supera il tutto, seguendo didascalicamente la narrazione del mostro sulle montagne di Chamonix al suo creatore. Tratterà implacabilmente del divenir cattivo della creatura, di come un essere senza identità, senza storia, solo come un cervo braccato inseguito fa un mondo a sé. La creatura è figura dell'identità negativa, i mostri sono tutto ciò che l'umano non è. Quindi chi è il mostro, chi è la mostruosità? Poi quando andiamo a seguire il messaggio che in tante narrazioni, pensate, scritto nei primi del 1800, pubblicato insomma da questo genio Mary Shelley. In questa sede mi permetterei di citare il poeta suo marito, un poeta secondo me straordinario, anche lui travagliato, così inquieto, che è Percy Bysshe Shelley. Di lui leggete tutto. 13-14 ottobre, Teatro Arena del Sole, Frankenstein a Love Story, ne abbiamo appena dato presentazione, la concludiamo con alcune informazioni logistiche, questa sera è alle ore 20:30 e sabato è alle ore 19, pubblicità e poi si rientra con il last minute di oggi, venerdì 13 ottobre. A tra poco!